30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. 133.000 famiglie povere, persone che faticano a mangiare la carne due volte la settimana, gente per cui anche mandare a scuola i figli diventa difficile. Succede in Lombardia, regione da quasi 10 milioni di abitanti che per il PIL complessivo si colloca al sesto posto dell'intera Unione Europea. Si tratta di un dato fisiologico, di una conseguenza inevitabile delle nuove dinamiche del lavoro? Contro l'esclusione sociale, la Caritas Ambrosiana ha proposto alla Regione Lombardia di fornire un reddito di autonomia, un assegno per i nuclei familiari sotto la soglia di povertà assoluta. Buonasera, benvenuti a questo appuntamento con 30 minuti in cronaca. Dunque, il tema è quello della povertà, ma è anche delle politiche sociali, perché se è vero che 133.000 famiglie è un numero, stiamo parlando di fatto dell'1,33%, è abbastanza facile il conto, della popolazione lombarda, che a primo impatto può sembrare quasi un dato consolatorio, in fondo altrove i numeri sono molto più alti. Nello stesso tempo lo stiamo parlando di una regione ricca, di una regione che ha un reddito importante, di un PIL estremamente importante. Insomma, una regione che evidentemente non deve accettare il fatto che la povertà faccia parte del panorama della nostra vita. Ne parliamo questa sera innanzitutto con il professor Egidio Riva. La ringrazio di essere con noi. Grazie a voi. Allora, il professor Riva lavora alla Cattolica di Milano, si occupa di temi ovviamente economici e sociali, ma ha realizzato una indagine per conto della Caritas, che le chiedo in poche parole, anche se so che non è una richiesta semplice, di sintetizzare cosa le hanno chiesto di studiare. La Caritas Lombarda ha chiesto di predisporre una piattaforma di confronto da discutere con il governo regionale e con la società civile, volta all'introduzione di una misura di contrasto alla povertà assoluta. Per questa ragione abbiamo raccolto i dati appunto sul fenomeno a livello regionale, abbiamo raccolto i dati sull'andamento del mercato del lavoro, sul funzionamento dei servizi sociali e abbiamo costruito quella che appunto abbiamo definito come una piattaforma di confronto, cioè una base rispetto alla quale discutere appunto con il governo regionale se e come introdurre una misura di contrasto alla povertà assoluta. Ecco, naturalmente l'approfondiremo tra un attimo, la misura è quella del reddito di autonomia, una forma che non è prevista in Italia. Esattamente, la Caritas è partita da questa constatazione che in Italia non esiste una politica esplicita di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale e che soprattutto già dai primi anni 90 l'Unione Europea invita tutti gli Stati membri a dotarsi di uno strumento che viene definito come reddito minimo, uno strumento di politica contro la povertà che al di là del nome prevede in realtà un'integrazione al reddito accompagnata però a una serie di servizi che accompagnano individui e famiglie verso l'inclusione sociale. Ecco perché qui, professore, di fatto abbiamo già anticipato un po' il nocciolo della diatriba, che è l'idea, l'Italia ha una tradizione di assistenza che discende poi dalla grande tradizione cattolica, sei povero, io ti aiuto, ti apro uno sportello, vieni, mangi, ti do dei vestiti, eccetera. Ma l'idea di dare uno stipendio per la povertà fa rabbrividire molti. Ma più che altro c'è da dire una cosa, l'Italia rispetto al panorama europeo si caratterizza per una spesa sociale di contrasto alla povertà che è poco generosa e soprattutto poco efficace. E le esperienze realizzate in altri paesi ci dicono che serve un piano innanzitutto esplicito, cioè misure che vadano effettivamente a contrastare le povertà e che per essere efficaci queste misure devono prevedere una serie di misure, tra cui, lo sottolinea ancora nel 2010 l'Unione Europea, il sostegno al reddito è una misura imprescindibile. Il questa sostegno però va abbinato ad altro. Assolutamente, lei giustamente insiste su questo tema perché ho letto naturalmente nel preparare questa trasmissione che l'ultima cosa che proponete è quella di dare appunto del denaro punto tout court, c'è un percorso ben più complesso. Ci arriviamo tra un momento, vorrei però chiederle prima, abbiamo parlato di 133.000 famiglie povere, ecco chi sono, che tipo di famiglie sono, ci dia una fotografia. Innanzitutto il dato è una stima riferita al 2009, può darsi anche che sia in crescita negli ultimi tempi anche per effetto della crisi. Quello che colpisce è che in Lombardia, come peraltro nel resto dell'Italia, sono le famiglie tra virgolette normali a sperimentare questo rischio di povertà. In Lombardia, per esempio, le percentuali più elevate di rischio di povertà sono presenti nelle famiglie in cui non vi è un percettore di reddito da lavoro, oppure semplicemente nelle quali non vi è il possesso di un'abitazione. Sono famiglie, io direi, nelle quali ordinarie transizioni di vita comportano questo rischio di povertà. Un esempio su tutti, il mettere al mondo i figli diventa in Italia e in Lombardia un elevato fattore di rischio. Ecco, questo naturalmente è un altro grande tema che si affianca a quella della difficoltà di questi tempi, che è quella della politica sociale di sviluppo nei confronti della famiglia, dei figli. Mi piace solo ricordare che non è una conseguenza ineluttabile avere un tasso di natalità così basso in Italia. Il paragone facile, ma credo doveroso, si può fare sempre con la vicina Francia, dove in condizioni sociali molto simili il reddito di il tasso di natalità è molto più alto e lì c'è di mezzo la politica. Ma noi restiamo nel nostro ambito. Dunque, famiglie, lei ha detto, normali. Non stiamo parlando dell'emarginazione, non stiamo parlando per esempio di chi magari per ragioni drammatiche, personali, si butta nell'alcol, si perde nei suoi fantasmi. Stiamo parlando di famiglie che hanno avuto un lavoro, che faticano ad avere un reddito regolare. Esattamente, e in questa direzione siamo andati nel avanzare la proposta alla Regione Lombardia, perché proprio la Regione Lombardia è una di quelle che in Italia, anche nei documenti programmatici di governo, tende a identificare l'area della povertà con l'esclusione sociale, cioè con tutte le fasce di popolazione che lei ha appena citato. In realtà la nostra proposta vuole compiere un passo avanti innanzitutto nel riconoscere che esiste, non lo diciamo noi ma lo dicono i dati ufficiali, un'area di povertà integrata, cioè non è un'area di povertà che è immediatamente visibile, perché costituita da famiglie che possono anche avere un lavoro, possono trovarsi in situazioni temporanee di difficoltà economica, ma non per questo devono per forza entrare nella spirale della povertà. Ecco, riconoscere l'esistenza di questo blocco sociale di persone a rischio potrebbe anche aiutare il percorso di uscita dalla povertà stessa, senza per questo richiedere investimenti di natura economica che siano insostenibili, anzi. Professor Riva, entriamo nel dettaglio. La vostra proposta cosa contempla? Quando parlate di reddito di autonomia, di cosa parlate, di quanto parlate e a che condizioni? Dunque, la nostra proposta è molto complessa. Per riassumerla, quello che prevediamo è di sposare innanzitutto il paradigma dell'inclusione attiva, così come definito a livello europeo, e quindi prevedere innanzitutto una politica, come le dicevo prima, esplicita a contrasto della povertà, una politica che oggi manca, una politica che è fatta di un trasferimento monetario che è abbinato e condizionato alla partecipazione da parte di tutti i membri del nucleo familiare a un cosiddetto progetto di inclusione socio-economica. Questo progetto di inclusione socio-economica prevede in sostanza l'integrazione di una serie di politiche che sono politiche per il mercato del lavoro, politiche di natura sociale e sociosanitaria e politiche anche nell'ambito dell'educazione e dell'istruzione. Quello che prevediamo in sostanza è di andare a cogliere i segni, i fattori di rischio della povertà e di eradicarli sin dalla loro origine, non intervenire a posteriore. Quindi è una politica di carattere preventivo e di carattere abilitante, perché vuol mettere gli individui e le famiglie nella condizione di potersi emancipare. Ecco, professore, si rende conto che questo è in qualche modo mettere una famiglia sotto tutela? Non è esattamente il contrario. Ah. Questo lo dice chiaramente, appunto, il ritorno all'Unione Europea, perché offre una prospettiva di uno sguardo molto più ampio. Significa invece favorire, anche sulla scorta del cosiddetto capability approach del premio Nobel Amartya Sen, si sostiene dare le condizioni alle famiglie per evitare che cadano in una spirale di dipendenza dallo Stato sociale. Noi dobbiamo riconoscere che in Lombardia, una regione ricca, una regione benestante, una regione a benessere diffuso, esiste il rischio di cadere in povertà e questo rischio va contrastato attraverso un insieme di misure che siano assistenziali ma non assistenzialistiche e che appunto consentano a individui e famiglie di garantirsi un percorso di vita dignitoso innanzitutto, dove progettare in autonomia, di cui il nome reddito di autonomia, il proprio futuro. Abbiamo appena citato il fatto che altrove, e in particolare in Europa, dove appunto questo tipo di approccio viene sostenuto, ci sono esperienze da segnalare. Immagino siano diverse, con successi e insuccessi complessi. Ci vuole citare un esempio pratico per dire, ecco, guardate che cosa accade laggiù e perché dobbiamo provare a farlo anche in Italia. Guardi, le faccio un esempio che è molto attuale. Si parla dei tagli alla spesa sociale nel Regno Unito. Ebbene, la politica del governo Cameron prevede esattamente questo, cioè di riformare l'impianto del welfare introducendo la cosiddetta universal credit, che significa uno strumento di reddito minimo che prevede l'eliminazione di tutte le altre misure di natura assistenzialistica. E l'esperienza intrapresa dal governo anglosassone ci dice esattamente che dobbiamo andare in questa direzione per riformare la spesa sociale rendendola più efficiente e più efficace. Ecco, tutto questo in un tempo in cui non facciamo altro che parlare di quanti pochi soldi abbiamo. Insomma, viviamo tutti nella società italiana, il ministro Tremonti non passa giorno che invita alla prudenza sulla spesa sociale. Questo non ha un effetto esplosione spesa sociale? No, esattamente il contrario. La nostra proposta mirata sullo specifico della Regione Lombardia prevede di portare a sistema innanzitutto le risorse che già erano state destinate anche nell'anno corrente al contrasto della povertà. Ma noi proponiamo di portare a sistema le risorse e soprattutto di portare a sistema le politiche, cioè di creare degli strumenti che siano integrati tra di loro. Noi siamo abituati a ragionare in termini di politiche settoriali, politiche per la famiglia, per la casa, per l'istruzione e quant'altro. In realtà il contrasto alla povertà, per essere efficace, richiede un ripensamento del welfare che vada anche in questa direzione. E che non necessariamente costi di più. No, anzi, come stavo dicendo, risparmio sulla spesa e integrazione tra le politiche. Grazie ad Egidio Riva, lo ricordo, economista della Cattolica di Milano. Grazie per averci spiegato questo progetto, questa proposta, ma anche questi dati che riguardano ovviamente la società italiana nel suo complesso, anche se abbiamo parlato di Lombardia. 30 minuti in cronaca. Seconda parte del nostro appuntamento, dunque siamo partiti da un dato, quello di circa 133.000 famiglie povere in Lombardia, una regione che, lo ricordiamo ancora una volta, è al sesto posto per il PIL nell'intera Unione Europea, insomma una regione di 10 milioni di abitanti, una regione ricca, una regione economicamente forte. Come vi ho anticipato, in questa seconda parte abbiamo come ospite Don Roberto D'Avanzo, direttore di Caritas Ambrosiana, grazie di essere con noi. Grazie. Quale è il dato? Noi abbiamo parlato di un numero, ma vorrei chiederle invece di rappresentarci quello che c'è dietro a questo numero. Il dato costante che ci ha portato a ritenere opportuno mettere a tema appunto una riflessione complessiva sul meccanismo di protezione, sul sistema di welfare che caratterizza il nostro paese, le nostre regioni, è rappresentato proprio dall'intercettazione quotidianamente attraverso i nostri servizi di ascolto famiglie, persone che appunto si trovano a non avere nessuno strumento di protezione rispetto alla perdita del lavoro, rispetto alla cassa integrazione, quindi alla riduzione del reddito. Il fatto che queste persone continuamente si rivolgono ai nostri uffici, l'esperienza più, diciamo così, eclatante è stata quella che abbiamo vissuto e continuiamo a vivere grazie al Fondo Famiglia Lavoro, questa misura straordinaria lanciata dall'Arcivescovo di Milano e che appunto fino ad oggi ha raccolto e distribuito circa 12 milioni di euro, però appunto tutto questo ci ha resi ulteriormente consapevoli che il nostro modo di intervenire nelle situazioni di bisogno, nelle situazioni di disagio, rischierà di essere sempre più un intervento tampone, un intervento cerotto, fino a quando appunto la spesa sociale del nostro paese non riuscirà a produrre dei risultati più significativi. I ricercatori ci dicono che tutto sommato rispetto all'Europa l'Italia ha una spesa sociale che si colloca in una posizione media. Quello che invece è assolutamente inadeguato è il risultato, cioè rispetto a quello che succede mediamente in Europa, a fronte della stessa spesa noi non riusciamo a fare uscire dallo stato di bisogno, dallo stato di povertà, le famiglie, le persone appunto che si trovano in una situazione di difficoltà. Ecco, Don Roberto, poi una domanda, direi che mi ha colpito abbastanza questa vostra proposta, perché se c'è o almeno un classico, almeno nella mia testa, è quella di un mondo cattolico che sostiene, naturalmente che si apre, che apre le porte letteralmente, al disagio nella forma classica dell'assistenza. Voi invece con questa proposta sostanzialmente dite andiamo oltre, bisogna quasi insegnare a chi ha bisogno ad aiutarsi, però riconoscendogli una capacità anche di spesa, di gestione economica e finanziaria. Come dire, vuol dire che dal Concilio Vaticano II non siamo riusciti come Chiesa, almeno in Italia, a dare appunto l'idea di un fare la carità che fosse libero dai rischi appunto di un assistenzialismo, di un'erogazione che appunto, per usare l'immagine di prima, si accontenta di mettere dei cerotti, perché già il dettato del Concilio Vaticano II, quindi stiamo parlando della metà degli anni 60, spiegava, insegnava alla Chiesa di tutto il mondo che gli interventi nei confronti del bisogno, nei confronti appunto di chi si trova in situazioni di difficoltà, non si possono accontentare soltanto di generare un qualche sollievo, ma si devono preoccupare anche di rimuovere la causa di quel bisogno. Ecco, allora la riflessione che noi stiamo portando avanti va proprio nel senso di interpretare un fare la carità che preveda, come dire, un'interdipendenza tra il pensiero e l'azione, tra un'azione appunto che è quello dell'intercettare, incontrare, sostenere le persone in difficoltà, ma insieme appunto elaborare a partire da questo un minimo di pensiero sociale per dire poi al decisore politico guarda che noi non possiamo andare avanti a mettere dei cerotti, c'è un problema da risolvere in radice. Ecco, questo problema, a nostro modo di vedere, riguarda il sistema appunto di protezione che in tutta l'Europa, a parte l'Italia e la Grecia, in tutti i paesi Europa 27, a parte l'Italia e la Grecia, prevede appunto un sistema di protezione che prevede una misura, chiamiamola così, di reddito minimo garantito, cioè un intervenire che cerca di garantire, di assicurare a tutti appunto quel minimo per una vita dignitosa. E questo, ecco, è la proposta che noi andiamo a sostenere, una proposta che non è soltanto però di sostegno al reddito, ma una proposta che dice: bene, io ti sostengo, io ti aiuto, ma tu, persona in difficoltà, ti rimbocchi le maniche, tu ti attivi, tu ti assumi delle responsabilità, tu accetti dei meccanismi di formazione, eccetera, eccetera. Insomma, una proposta che ha un forte sapore meneghino, direi. Egidio Riva prima ci ha raccontato tutta una serie di dettagli di questa proposta, ma quello che vorrei chiedere a lei è: il decisore politico sembra maturo per accogliere ciò che in passato invece è sempre stato rifiutato? Lasciamo lei l'avrà avvertito nella dobbiamo tener conto questo, che in Italia una ricerca di questo genere, una sperimentazione meglio di questo genere, era già stata attivata alla fine degli anni 90 e poi era stata sospesa agli inizi dei primi anni del 2000. Non abbiamo ancora avuto la possibilità di verificare i risultati di questa sperimentazione, perché poi non sono stati così diffusi. Noi stiamo appunto rilanciando questo tipo di misura, consapevoli che una regione come la Lombardia potrebbe essere un territorio strategico per una sperimentazione, perché appunto riconosciamo alla Regione Lombardia la presenza di tutta una serie di servizi, la presenza di un tessuto sociale, organizzativo, anche di qualità della pubblica amministrazione, che permetterebbe appunto lo star dietro alle persone in difficoltà, non accontentandosi appunto soltanto di erogare qualcosa. C'è un problema proprio di accompagnamento, c'è un problema anche di tipo educativo, perché poi per certe persone la questione si pone nei termini di aiutare la persona non soltanto in termini economici, ma anche a usare, a imparare a usare bene i soldi, magari il sostegno economico che gli viene erogato. Quindi c'è un'assistenza ma responsabilizzante, si tenta un po' questa quadratura del cerchio, cioè ti do un aiuto però insieme tu ti rimbocchi le maniche. E questo, ecco, questo naturalmente implica anche una vera e propria partecipazione da parte non solo da chi riceve, di chi riceve, ma anche da, di chi offre e di chi partecipa a questo sforzo. Io ringrazio Don Roberto D'Avanzo, mi scuso, siamo in conclusione, i tempi stringono, lo ricordo, direttore della Caritas Ambrosiana, torneremo a parlare di questi temi e di come magari attraverso anche la Lombardia e le proposte avanzate dalla Caritas si possa sperimentare delle modalità per affrontare delle povertà che nel termine sono antiche e sempre presenti, ma in realtà cambiano continuamente nella nostra società e noi dobbiamo imparare a gestirle in modo nuovo. Un saluto da parte mia, un saluto naturalmente da tutti noi di Radio 24, vi ricordo solamente www.radio24.it per sentire e risentire tutte le nostre trasmissioni. L'appuntamento è per sabato prossimo. We'll be right back.